fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo nuovamente in diretta con la sposa più bella della serata, vero ragazzi? Siete d'accordo? Siete... Assolutamente, soprattutto le tette. Soprattutto le tette, ecco, purtroppo in radio non si riesce... Cosa cos'è, una mucca? È una mucca? Allora, ditelo voi il nome della sposa? Marco, Marchetta? Era mica Marchetta. Marchino. Sì, siamo qui nella zona di 105. Bentornati, attenzione. Fantastico, ogni tanto. Allora lascio la linea a Paolo Nois. Dov'è Paolo Nois? Verde! Ah, eccolo. Fantastico. Sono Giulia, uomo scopato. Si vede che l'ascoltate tutti, eh? Bravi, si vede. No. Lì, nella... Oh, nella pista c'è Bill Cosby. Ma Bill Cosby che mi vuole prendere. Mazzoli, Corelli. Oh, Bill Cosby. Sono vicino a voi, sono le 2.07 però. Ma dai, che sei lì a Miami a non fare un cazzo. Ecco, perfetto. Ho un altro fan, eh. Quello si è commosso addirittura, Addirittura. Ma facciamo parlare un po' Marchetta un attimino. Marchetta, Marchetta, presentami un po' i nomi degli amici qua, chi sono, come si chiama? Mucche. Al microfono, vicino. Mi senti? Sì, così sì, bravo. Molto bene. Allora, gli amici che ci sono qua dentro sono Davide, che sarà il testimone insieme a mio fratello Matteo. Ok. Davide ha detto... Red, rosso, variante di capito. Sì, c'è un... Non ho nome. Una montagna di soprannomi. Sì. Ok. Quello disperato che. Quello che è arrivato per ultimo che. Io. Il Bobby. Ah, il Bobby. Arriva le mucche e la vena. Bobby solo praticamente, eh? Anche. Da questa sera. Ricordo che però da oggi è Bonnie. Bonnie. È diventato Bonnie. Noi abbiamo Bonnie, manca solo Clyde. Non so perché l'ho chiamato Bonnie. Come mai l'avete chiamato così stasera? No, mi è venuto spontaneo, sai, da qua. Così ti viene. Lo sposo l'ha battezzato Bonnie. Sì, esatto. Bonnie, Bobby, un attimo, insomma. Va bene, andiamo avanti con le specie. Qua di anni di. Ma dai, non toccarmi il culo! Che succede? No, dopo mi ecci. Momenti toccanti. E vai avanti con la presentazione degli amici. E qua. Dopo abbiamo, vabbè, a parte il mio fratello che è Teo, il testimone. E dov'è? Dov'è? Ah, eccolo. Lì, esatto, è andato in fermo immagine un attimo. Non... quello cos'era, la nave o una piccola? Stava male questa mucca. La mucca si chiama Gaja, è la nostra mascotte. E dopo abbiamo la seconda mucca che è Ciccio. Ah, ma sono tutte mucche? Sì. Mi piace il loro modo di esprimersi, magari qualcuno sperava che fossero dei tori, invece no, sono proprio mucche. Siamo umili. Ok, poi cosa abbiamo? A livello D. Ok. Che si deve decidere? Chi è questa? No, che non sapeva. Come si chiama? Abbiamo finito? No, io sono Davide, sono il testimone. Ah, Davide è il testimone, basta. Ogni tanto interviene la mucca? No, io non mucco ancora. E poi abbiamo Marchetta, okay, giusto. Dobbiamo fargli bere qualcosa. Ha deciso di sposarsi. Ha deciso lui? Sì. Ma cioè, era lei che non voleva? Lei non lo sa ancora. No, lei voleva, non voleva? Lei gliel'abbiamo detto oggi, ma non so. Ah, lei non lo sa, cioè no, lui ha deciso da solo in pratica? Sì, praticamente fatto solo per avere l'addio celibato, insomma. Ah, ok, solo per questo motivo. Sì, esatto. Si vede che è vero amore questo, hai sentito? No, attenzione, abbiamo i tuoi amici che intanto hanno problemi di flautolenza. Proprio. Flautolenza? Sì, è giusto, per dire in maniera elegante. Già siamo in pochi qua dentro. Se qualcuno fa parecchio freddo qui. Esatto, c'è molto freddo. Guarda, anche Miami, molto freddo. C'è anche lui, si chiama un ragazzo ciccione fallito tremendo. Ecco, perfetto. Sarà bello. Attenzione, ecco. La suspense. Sentiamo Rutto tutti insieme. Ecco, sono momenti fantastici la questi. La famiglia. Che faccio? Li abbiamo persi. Arriva, eccolo che arriva. Sta bevendo la Coca-Cola. Attenzione. Adesso va. Ecco, ricordiamo che da YouTube direttamente non è farina del nostro sacco. Posseduto questo. Questo è posseduto. Ma che schifo. Abbiamo, abbiamo... Niente, vabbè, è stato bellissimo, ragazzi. Immagino sia io, stato proprio. Io, vi ringrazio per la vostra partecipazione. Ecco, sì, digestiva, sì, tra l'altro. Ecco. Cioè, insomma... merda! Ecco, grazie, ragazzi. No. Va bene. Salutiamo Marchetto, che no, è meglio. No, era ogni cosa detta e pensata e detta in questa trasmissione è stata non pensata per recare offesa. Se siete sensibili a questo, esatto, bravo, bravo, bravo, mi piace questo, questo messaggio. È quello che capita semplicemente. Qualcuno qua non ci capiamo più. Ciao. Ok, ciao ragazzi, ragazzi di Padova. Ciao a tutti. Ciao.